Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 1, al capitolo 2 della prima epistola di Paolo a Timoteo, prima epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2. Leggerò alcuni versetti, precisamente dal versetto primo al versetto settimo. Così dice Paolo, apostolo e dottore dei gentili in fede e in verità: io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso col prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo e per attestare il quale io fui costituito banditore ed apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili, in fede e in verità. Dunque dobbiamo pregare per tutti gli uomini, per tutti gli uomini, affinché essi siano salvati, perché è scritto appunto che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Dio vuole salvare uomini e donne di tutte le razze, di tutte le tribù, di ogni lingua e nazione. E tra coloro, diciamo, per i quali noi dobbiamo pregare affinché siano salvati, ci sono gli ebrei. L'apostolo Paolo pregava per gli ebrei, suoi connazionali. Voi sapete che l'apostolo Paolo era ebreo di nascita. L'apostolo Paolo pregava appunto per i suoi fratelli secondo la carne affinché fossero salvati. Questo era il suo desiderio e questa era la sua preghiera. E lui lo dice questo ai santi di Roma al capitolo 10. Infatti leggiamo queste parole. Capitolo 10 dei Romani, dal versetto primo al versetto 4. Dice Paolo: fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo, per essere giustizia ad ognuno che crede. Quando l'apostolo Paolo qui dice per loro, al versetto 1, si riferisce agli ebrei. Perché? Perché poco prima, dice queste parole: che diremo dunque? Diremo che i gentili, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. Perché? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'intoppo, siccome è scritto: ecco, io pongo in Sion una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato. Dunque, ecco chi sono coloro per i quali l'apostolo Paolo pregava. Erano gli israeliti, o ebrei, o giudei, i quali hanno intoppato nella parola, ossia hanno intoppato nell'Evangelo. L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, cioè Pietro, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo, e non solo l'Apostolo Paolo, predicava. Predicava sia a giudei che gentili. L'Evangelo è la parola di Dio, è la parola della buona novella, nella quale intoppano gli ebrei o gli israeliti. A questo sono stati destinati. Nonostante ciò, questo lo dice Pietro, che sono stati destinati a intoppare nella parola, leggiamo il versetto dove lo dice, capitolo 2 della prima epistola di Pietro, l'Apostolo dice, poiché si legge nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare eletta e preziosa, e chiunque crede in lui non sarà confuso. Per voi dunque che credete, ella è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare. È una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo. Essi infatti, essendo disobbedienti, intoppano nella parola, e da questo sono stati anche destinati. Dunque, Apostolo Pietro, che era apostolo della circoncisione, ossia apostolo degli ebrei, dunque dice che intoppano nella parola, e questa è la verità. Ora, chi è che li fa intoppare? Li fa intoppare Dio. Nonostante ciò, però, dobbiamo naturalmente ricordarci che se non perseverano nella loro incredulità, loro che sono stati tagliati dall'olivo domestico, cioè gli ebrei disobbedienti, saranno innestati. Allora, ecco perché l'Apostolo Paolo pregava per gli ebrei. E noi naturalmente dobbiamo fare la stessa cosa, perché ancora oggi gli ebrei intoppano nella parola, sono disubbidienti, rifiutano di credere che Gesù di Nazaret è il Messia o Cristo. Rifiutano di credere nell'Evangelo. Per loro l'Evangelo è uno scandalo. Gli ebrei, quando sentono predicare l'Evangelo, si scandalizzano, perché per loro il messaggio dell'Evangelo è un messaggio inconcepibile dal punto di vista ebraico. E quindi lo rigettano. Ora, se l'Apostolo Paolo pregava per gli ebrei affinché fossero salvati, la cosa la dobbiamo fare anche noi. Anche perché noi siamo chiamati a imitare l'Apostolo Paolo. Vi ricordate che cosa disse lui? Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Quindi imitiamo l'Apostolo Paolo, che desiderava che gli ebrei fossero salvati e pregava appunto affinché il Dio li salvasse. Ora, da notare che è scritto: essi hanno dato nella pietra d'intoppo. Ora, la pietra di intoppo è Gesù Cristo, che è la pietra angolare, eletta e preziosa per i credenti, ma per gli increduli è una pietra di intoppo, una roccia di inciampo. Vedete dunque? Considerate dunque la differenza, diciamo, che c'è tra noi che crediamo e gli increduli ebrei. Noi gentili di nascita abbiamo conseguito la giustizia di Dio e l'abbiamo conseguita per fede, perché è la giustizia che viene dalla fede, mentre gli ebrei, pensando di poter essere giustificati per la legge di Mosè o per le opere della legge di Mosè, hanno rifiutato e rifiutano la giustizia di Dio. E dice bene l'Apostolo Paolo, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza. Ora ne sappiamo che l'ardore o lo zelo senza la conoscenza non è cosa buona. Ma che cosa intende qui l'Apostolo Paolo quando parla di conoscenza? Cioè, che cos'è che non conoscono gli ebrei? Gli ebrei non conoscono la giustizia di Dio. Infatti, poco dopo, dice, immediatamente dopo, dice, perché ignorando la giustizia di Dio, notate? Ignorando, quindi non conoscendo la giustizia di Dio, non la conoscono. Loro conoscono la giustizia che viene dalla legge, che dice l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Questa la conoscono, sanno appunto, diciamo che è scritto nella legge ciò. Ma il Dio ha fatto sì che queste parole fossero scritte affinché loro ci intoppassero. Perché noi sappiamo che altresì è scritto che il giusto vivrà per la sua fede. L'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma l'uomo è giustificato per la fede in Cristo Gesù. Badate bene che la giustificazione per fede, e quindi per grazia, è attestata dalla legge e dai profeti. Infatti le parole «il giusto vivrà per la sua fede» sono scritte nel libro del profeta Abacuc, che è uno dei profeti antichi, uno dei profeti di origine appunto ebraica, suscitati da Dio per appunto trasmettere i suoi oracoli al popolo di Israele. Ebbene, gli ebrei non conoscono la giustizia di Dio, la ignorano. Quindi ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, vedete, da un lato naturalmente c'è questa ignoranza in loro, no? Perché ignorano la giustizia di Dio, e dall'altro naturalmente c'è quel, diciamo, il tentativo loro di stabilire la loro propria giustizia, che poi è quella derivante dalla legge, che agli occhi di Dio è come un panno sporco. Allora, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, cioè cercando di essere giustificati per la legge di Mosè, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Sì, perché l'uomo viene giustificato quando crede in Cristo Gesù. Notate? Cristo Gesù è giustizia ad ognuno che crede. Allora, nel momento in cui l'uomo crede nel Signore Gesù Cristo, ossia nell'Evangelo, il Dio gli imputa la sua giustizia, cioè la giustizia di Dio. Dunque, gliela imputa gratuitamente, per grazia. Come dice l'Apostolo Paolo ai santi di Roma, dice così: ora a chi opera la mercede non è messa in conto di grazia ma di debito, mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Vedete dunque che La scrittura parla della beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere. Quale giustizia? La giustizia di Dio. Ecco perché la giustificazione è per grazia, mediante la fede, e non per opere. Anche dopo avere creduto, la giustificazione, ci tengo a ribadirlo, è per grazia, mediante la fede, perché è scritto il giusto vivrà per la sua fede, non è scritto il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere, ma il giusto vivrà per la sua fede. Dunque, il Dio mette all'uomo che crede, gli mette la sua fede in conto di giustizia, e quindi lo giustifica per fede. Ora, la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo. La giustizia di Dio non è rivelata in un altro messaggio. No, è rivelato nell'Evangelo. Questo lo dice sempre l'Apostolo Paolo. Infatti dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ecco dunque dove è rivelata la giustizia di Dio, nell'Evangelo. Allora, è evidente che se la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo, è indispensabile che l'uomo creda nell'Evangelo. Ma quale Evangelo? Quello che predicavano gli apostoli, quello che l'apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo e che io vi ho innanzi, appunto, detto qual è. La giustizia di Dio non è rivelata in un altro Evangelo, o meglio, non è che la giustizia di Dio è rivelata in più Vangeli, come se ce ne fossero, no? 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 di Evangeli, no? La giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo. Allora è indispensabile, naturalmente, predicare l'Evangelo agli ebrei, perché qui mi sto appunto concentrando sulla salvezza degli ebrei, sto parlando appunto di pregare per la salvezza degli ebrei. Allora, agli ebrei bisogna annunziargli l'Evangelo, ma non un qualsiasi Evangelo. Perché oggi, vedete, molti usano il termine Evangelo e, diciamo, con questo termine chiamano messaggi che non sono assolutamente l'Evangelo. Vi faccio un esempio. Non è che tu, se incontri un ebreo, devi pensare che dicendogli Gesù ti ama gli stai annunziando l'Evangelo, perché non gli stai annunziando l'Evangelo. Gesù ti ama non è l'Evangelo. Ti dirò di più, nemmeno Dio è amore è l'Evangelo. Per dire, Dio amore è parola di Dio. Eppure non è l'Evangelo, perché l'Evangelo non è un messaggio qualsiasi. Non è che uno può prendere un qualsiasi messaggio che vuole. E dire questo è l'Evangelo. Facciamo un altro esempio. Tu incontri un ebreo, cosa gli vai ad annunciare? Cristo è la risposta? Cristo è la risposta ad ogni problema dell'umanità. Questo è l'Evangelo secondo te da annunciare agli ebrei? No, questo non è l'Evangelo. Vi sto facendo questi esempi pratici per farvi capire la profonda ignoranza che oggi c'è nelle chiese. Dico nelle chiese. Non sanno cos'è l'Evangelo. Dico, eppure si chiamano chiese evangeliche, eppure si chiamano evangelici, anche noi naturalmente ci chiamiamo evangelici, ma non sanno cos'è l'Evangelo. O meglio, pensano erroneamente che l'Evangelo sia Gesù ti ama, Dio amore, Cristo è la risposta, Dio ha un piano per te, per la tua vita, per la tua famiglia. Pensano che l'Evangelo sia questo, ma non è questo. Non è questo l'Evangelo, nessuno di questi. E allora, dato che bisogna annunciare l'Evangelo, bisogna, agli ebrei, bisogna conoscere l'Evangelo, in che cosa consiste l'Evangelo. E allora, per coloro che ancora non lo sanno, li esorta ad andare ad aprire la loro Bibbia a Primo Corinzi, capitolo 15. Leggendo dal versetto 1 al versetto 11, scopriranno cos'è l'Evangelo. L'Evangelo che l'Apostolo Paolo annunziava anche agli ebrei e non solo ai gentili. Certo, dice bene l'Apostolo Paolo ai Romani quando dice: come predicheranno se non sono mandati? Perché l'Evangelo, per predicare l'Evangelo bisogna essere mandati dal Signore. Infatti oggi sono pochi quelli che annunciano l'Evangelo, perché sono pochi quelli che sono mandati da Dio a predicare l'Evangelo. Questo è di fondamentale importanza, perché oggi tanti predicano ma non sono mandati da Dio, e questo si vede dal fatto che annunciano un altro Evangelo. Il Dio non manda a predicare un altro Evangelo, Dio manda a predicare l'Evangelo. Quindi se voi sentite un predicatore che annuncia un altro Evangelo, dovete sapere che quell'uomo non è mandato da Dio, non è un predicatore dell'Evangelo, non è un ministro dell'Evangelo. Perché? Perché annunzia un altro Evangelo, e per chi annuncia un altro Evangelo c'è l'anatema, c'è la maledizione. Dice l'Apostolo Paolo infatti ai santi della Galazia: io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Evangelo, il quale poi non è un altro Evangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio, o cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Infatti, molti non sono servitori di Cristo, perché non annunciano l'Evangelo di Cristo, ma annunciano un proprio Evangelo, che è un altro Evangelo. E costoro sono anatema. L'Apostolo Paolo è chiaro, la Sacra Scrittura non lascia alcun dubbio. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Ora, è evidente che se uno vi annuncia un Vangelo diverso, vuol dire che non è stato chiamato da Dio e mandato da Dio a predicare. Ricordatevi che oggi, come allora, ci sono molti ministri di Satana. Satana significa avversario. Coloro che annunciano un altro Evangelo, praticamente sono al servizio di Satana, l'avversario. Infatti predicano un altro Evangelo, un Vangelo diverso da quello che noi abbiamo ricevuto, mediante il quale noi siamo salvati. Dunque bisogna appunto conoscere l'Evangelo, bisogna essere mandati da Dio a predicare l'Evangelo. L'Apostolo Paolo fu mandato da Dio a predicare l'Evangelo. Infatti vedete che l'Apostolo Paolo predicava l'Evangelo? Infatti l'Evangelo che lui predicava non lo imparò da alcun uomo, non lo ricevette da alcun uomo, ma lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Allora l'Evangelo che annunciava l'Apostolo Paolo, noi sappiamo essere l'Evangelo che va predicato anche agli ebrei, affinché essi, credendo, siano giustificati, ossia ricevono la giustizia di Dio che viene dalla fede, che è basata sulla fede. Dunque, da un lato bisogna che sia annunziato l'Evangelo agli ebrei, perché gli ebrei non si possono salvare osservando la legge di Mosè, non possono essere giustificati per le opere della legge di Mosè, perché il giusto vivrà per la sua fede, la salvezza è per grazia mediante la fede. Quindi da un lato bisogna annunziarglielo l'Evangelo, perché la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo, l'Evangelo è la parola di Cristo. Considerate che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, è in grado l'Evangelo di salvare chiunque crede appunto in esso, il giudeo come anche il greco. Allora, bisogna dunque conoscere, che uno conosca l'Evangelo, poi bisogna che uno sia mandato da Dio a predicare l'Evangelo, e quindi questo naturalmente, diciamo, viene fatto ancora oggi, perché ci sono coloro mandati da Dio a predicare l'Evangelo anche agli ebrei. Ebbene, gli ebrei naturalmente odiano Gesù, questo naturalmente bisogna sempre tenerlo in conto, perché l'odio verso Gesù gli viene instillato sin da quando sono bambini. Peraltro gli vengono raccontate le storie di Gesù, che sono delle favole su Gesù, che sono delle menzogne, delle cose assurde, delle cose false. Ora, quindi queste cose bisogna saperle. Bisogna sapere anche qual è, diciamo, come si dice, la reazione che in linea generale gli ebrei hanno quando gli viene annunciato l'Evangelo. È una reazione di rigetto totale. Loro assolutamente non credono che Gesù di Nazareth sia il Messia che il Dio aveva promesso ab antico per mezzo dei suoi profeti. Loro pensano che sia un falso Messia. E quindi naturalmente hanno un particolare odio e disprezzo verso Gesù, anche perché siccome che molti gentili di nascita hanno creduto in lui e credono che lui è il Messia, loro sono mossi a gelosia verso di noi. E allora bisogna annunziargli l'Evangelo. La reazione, diciamo, degli ebrei, basta considerare nel libro degli Atti degli Apostoli che cosa avveniva quando gli apostoli annunziavano l'Evangelo agli ebrei, per capire appunto quale sia la reazione immediata della stragrande maggioranza degli ebrei, perché chiaramente in mezzo agli ebrei c'è un residuo eletto secondo la grazia, e coloro che fanno parte di questo residuo, poi nel momento in cui ascoltano l'Evangelo, il Signore gli dà di credere nell'Evangelo. Allora, quando noi preghiamo per gli ebrei, e dobbiamo farlo come lo facevano gli antichi discepoli del Signore, avviene che la nostra preghiera sale al cospetto di Dio, e sappiamo che Dio la esaudisce, perché Dio vuole salvare gli ebrei. Naturalmente salva coloro che tra gli ebrei sono ordinati a vita eterna, cioè eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo. Voi sapete per esempio che Saulo da Tarso, prima di essere salvato dal Signore, era un diciamo feroce persecutore della Chiesa. Il Signore però lo aveva predestinato ad essere salvato, lo aveva eletto a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo. E quando venne il tempo da lui stabilito, il Signore lo salvò. Infatti voi sapete che lui ebbe una visione celeste sulla via che mentre andava a Damasco, a perseguitare i santi, una visione celeste in cui gli apparve Gesù, che gli parlò e lo convertì. Fu là che lui credette che Gesù era il Cristo, il figliolo di Dio. Fu su quella strada che egli fu salvato, giustificato, perdonato, riconciliato con Dio, fu su quella strada che lui appunto diventò un figliolo di Dio, però diciamo in precedenza aveva fatto tanto male alla Chiesa, perché lui si era proposto proprio di distruggere la fede nel Signore Gesù Cristo, aveva incarcerato tanti di nostri fratelli, però era stato eletto dal Signore e allora il Signore lo salvò. Quindi noi abbiamo questa certezza che coloro che tra gli ebrei che il Signore ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, come diciamo aveva eletto a salvezza l'Apostolo Paolo, ma possiamo anche naturalmente citare l'Apostolo Pietro, Giacomo e Giovanni, figlioli di Zebedeo, Andrea, Filippo, Maria Maddalena, e insomma, voi li sapete, i nostri fratelli, diciamo, ebrei di nascita, diciamo, di quel tempo. Okay. Quindi, voglio dire, ci consola sapere che noi nel pregare per la salvezza degli ebrei saremo esauditi. La Chiesa sarà esaudita, viene esaudita, perché il Signore salva quegli ebrei che sono ordinati a vita eterna, che l'Apostolo Paolo chiama residuo eletto secondo la grazia. Infatti dice: quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto. Vedete? Parla di un residuo eletto. Sì, perché il Signore si è riservato un residuo in mezzo ad Israele, chiamato anche un residuo secondo l'elezione della grazia. Infatti l'Apostolo Paolo, per indicare questo residuo, diciamo, ci ricorda quel residuo di 7.000 uomini che il Signore si era riservato ai giorni del profeta Elia. Vi ricordate che Elia era ricercato dalla moglie di Acab, una donna malvagia, ricercato per essere ucciso, pensava di essere rimasto solo. E invece il Signore gli disse: mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Baal era una divinità straniera alla quale si erano abbandonati gli israeliti, perché si erano dati all'idolatria. Allora dice l'Apostolo Paolo: e così anche nel tempo presente v'è un residuo secondo l'elezione della grazia. C'era allora e c'è ancora oggi. Infatti noi sappiamo che tra gli israeliti di tutto il mondo c'è appunto un piccolo numero di israeliti o ebrei che credono che Gesù di Nazaret è il Messia. E badate bene che sono odiati questi nostri fratelli e disprezzati e perseguitati e discriminati nel territorio di Israele, del moderno Stato di Israele. Questa è una cosa naturalmente che i sionisti che ci sono in mezzo alle chiese non vi fanno sapere. Ma è trapelata la cosa, è trapelata, la verità è questa, ma d'altronde non può essere altrimenti, perché già ai giorni degli apostoli i nostri fratelli ebrei di nascita erano perseguitati in Israele e lo sono tuttora. E peraltro per questi nostri fratelli dobbiamo pregare, perché oltre ad essere perseguitati persino anche dalle autorità, discriminati dalle autorità e naturalmente da loro connazionali, e naturalmente siccome che Israele, diciamo che non poche volte si ritrova in guerra, e naturalmente poi soprattutto in questo periodo che diciamo ha subito diversi attacchi, naturalmente sia attacchi terroristici che anche attacchi di altro genere, perché chiaramente Israele è in guerra contro in guerra contro i filistei, cioè quelli che oggi vengono chiamati palestinesi, ormai da molto tempo, come anche in guerra con gli arabi, anche qui da molto tempo, quindi non è che noi ci meravigliamo di queste guerre che Israele periodicamente, diciamo, affronta contro i filistei, io li chiamo filistei perché sono filistei, e contro gli arabi, no, nella maniera più assoluta, non ci meravigliamo, diciamo che fanno parte, diciamo, delle guerre a cui Israele periodicamente è coinvolto. Allora, siccome che vivere in quella nazione non è facile, diciamo, anche per questa ragione, dobbiamo pregare per i nostri fratelli ebrei di nascita che credono nell'Evangelo, affinché il Signore li protegga, li sostenga, li liberi, li consoli, perché veramente hanno bisogno che noi preghiamo per loro. Non ci dimentichiamo dunque delle nostre preghiere, anche dei nostri fratelli ebrei che si trovano in Israele e che sono perseguitati appunto dai loro connazionali. Quindi dobbiamo pregare per gli ebrei che ignorano la giustizia di Dio e cercano di stabilire la loro propria giustizia. Per costoro dobbiamo pregare affinché il Signore li salvi. Avete visto cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice: la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Allora significa che non sono salvati. Perché dico questo? Perché oggi molti presentano gli ebrei disubbidienti, gli ebrei che non credono nel Vangelo, come se fossero salvati. Beh, ma fratello, ma loro hanno la legge di Mosè. E allora? Perché non ce l'avevano anche ai giorni degli apostoli la legge di Mosè? Perché non ce l'avevano anche mentre Gesù, il figlio di Dio, si trovava in mezzo ai giudei? Non ce l'avevano la legge a quel tempo? Certo che ce l'avevano. Eppure Gesù esortava a credere in lui affinché fossero salvati gli uomini. Esortava i giudei a credere nell'Evangelo. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo, Gesù diceva agli ebrei. E gli apostoli cosa dicevano agli ebrei? Ah, vi potete salvare osservando la legge di Mosè. Questo è quello che gli dicevano? No, li scongiuravano a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo. Perché gli apostoli, che erano ebrei, vi ricordo per esempio, prendiamo per esempio gli apostoli Paolo, Pietro, Giovanni, erano ebrei, che cosa predicavano agli ebrei? Ah, non vi preoccupate, forse gli predicavano, non vi preoccupate, voi avete la legge di Mosè, potete essere salvati, osservando la legge di Mosè, potete essere giustificati, no? Mettendo in pratica i precetti della legge. E questo è quello che gli predicavano? Ma no, nella maniera più assoluta, gli predicavano il ravvedimento e gli predicavano l'Evangelo, e li esortavano a credere nell'Evangelo. Ed è per questo che scoppiavano le rivolte contro gli apostoli, che venivano perseguitati di città in città dagli ebrei. L'apostolo Paolo fu vicino alla morte diverse volte per mano degli ebrei. Il Signore lo scampò, lo liberò dalla mano dei suoi connazionali tante volte, perché loro si proponevano di ammazzarlo a Paolo da Tarso. E perché lo volevano ammazzare? Perché l'apostolo Paolo predicava agli ebrei l'Evangelo. Sì, gli predicava la buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo. Gli predicava l'Evangelo nel quale è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Ecco perché l'apostolo Paolo era odiato e perseguitato dai giudei. Basta leggere il libro degli Atti degli Apostoli per capire l'odio, forte odio, che c'era in mezzo agli ebrei verso Paolo. E guardate che l'odio verso Paolo da Tarso, ancora oggi a distanza di migliaia di anni, è rimasto immutato. Ho letto diversi libri di rabbini ebrei, quando ho studiato il giudaismo moderno, e vi posso assicurare che l'odio verso l'Apostolo Paolo è veramente, veramente grande, è feroce. Ecco perché coloro che imitano l'Apostolo Paolo ricevono lo stesso trattamento dagli ebrei. Sì, sì, proprio così, proprio così. E dunque, come vi ho detto, come dice la Sacra Scrittura, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, noi dobbiamo pregare per gli israeliti, per gli ebrei, affinché Dio li salvi. Allora, vi stavo dicendo questo. Allora, se Paolo dice questo, vuol dire che non sono salvati allora. Quelli che non credono in Gesù, gli ebrei che non credono in Gesù, non sono salvati. Eh no, sono sotto il peccato. Sono sotto il peccato gli ebrei che non credono in Gesù. E quindi sono sotto maledizione. Alcuni, quando sentono dire questo, dicono, ma tu sei un antisemita. Allora, io sono un anti-menzogna. Io sono contro la menzogna. Io sono un anti-anticristi. Cioè, io sono contro gli anticristi. Chi sono gli anticristi? Quelli che negano che Gesù è il Cristo. Quindi io sono contro gli anticristi. Ma questo oggi, sapete, molti non gli piace sentirselo dire. Sì, io sono contro gli anticristi, perché gli anticristi sono quelli che negano che Gesù è il Cristo, e naturalmente tra questi anticristi ci sono pure gli ebrei. Lo dico io questo? O lo dice la Scrittura? Guardate, lo dice un ebreo. L'ha detto un ebreo, si chiamava Giovanni, figlio di Zebedeo. Dice così, chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'anticristo che nega il Padre e il Figliolo. Queste parole sono state scritte da Giovanni nella sua prima epistola, al capitolo 2, versetto 22. Dunque, ecco io contro chi sono. Sono contro gli anticristi. Sono contro quelli che negano che Gesù è il Cristo. Sono contro coloro che, ignorando la giustizia di Dio, cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Sono contro coloro che pensano o che credono di essere giustificati per la legge di Mosè. Ecco contro chi sono. Io proclamo ciò che è scritto. La Bibbia dice che tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Ora, gli ebrei si basano sulle opere della legge. Basta prendere un qualsiasi libro sulla vita, i costumi, i riti e anche le dottrine del giudaismo per rendersi conto che gli ebrei si basano sulle opere della legge. Naturalmente sull'osservanza della legge delle centinaia di precetti della legge di Mosè, tra cui spiccano l'osservanza del sabato e poi la celebrazione della festa di Pasqua, la celebrazione della festa di Pentecoste, delle capanne, dello Yom Kippur, perché è il giorno dell'espiazione, e poi della circoncisione, per esempio, perché ci tengono molto gli ebrei tuttora alla circoncisione della carne, e poi tanti altri precetti. Per esempio sul sabato insegnano tantissime cose, no? Voi sapete che il giorno di sabato gli ebrei si devono astenere da ogni lavoro, e per loro, naturalmente, per gli ebrei ortodossi, la violazione del sabato è un grave peccato. Allora, gli ebrei si basano sulle opere della legge. Ma la Scrittura dice che sono sotto maledizione tutti coloro che si basano sulle opere della legge. Ma È Paolo che lo dice questo, anche lui ebreo di nascita, anche lui antisemita, perché ormai tutti quelli che naturalmente parlano in questa maniera sono definiti antisemita. Voi sapete che l'antisemitismo addirittura viene, diciamo, viene attribuito all'Apostolo Paolo. All'Apostolo Paolo, vi rendete conto? L'Apostolo Paolo, diciamo, viene fatto passare per uno che odiava i giudei. Perciò, se l'Apostolo Paolo, che era ebreo di nascita, viene accusato tutto, che era un odiatore degli ebrei, figuriamoci noi. Allora, che siamo gentili di nascita. Allora, Paolo si basava su quello che dice la legge di Mosè stessa. La legge di Mosè, che vi ricordo, tra gli ebrei è considerata la parte più sacra della loro Bibbia. Voi sapete che la Bibbia ebraica si compone, diciamo, dei libri che vanno dalla Genesi a Malachia. La parte più sacra, più importante, è la legge di Mosè, il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia. Allora, l'Apostolo Paolo, quando dice che tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, lo dice in virtù di quello che dice la legge. Infatti poi dice, perché è scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi, vedete, sotto maledizione. Ma guardate che essere sotto la maledizione di Dio o sotto la maledizione della legge non è una cosa, diciamo, leggera. È una cosa che va presa con molta, insomma, è una cosa molto pesante. Allora, dice l'Apostolo Paolo, che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, sto leggendo dai Galati, capitolo 3. Anzi, essa dice, chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. Questa è la giustizia che viene dalla legge, quella che dice queste cose. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto, maledetto chiunque appeso al legno affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Allora notate dunque, tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, lo dice la legge stessa. Allora nessuno è giustificato per la legge dinanzi a Dio, nessuno! Quindi gli ebrei non possono essere giustificati per la legge dinanzi a Dio. Perché? Perché? Perché è scritto, il giusto vivrà per fede. Dove è scritto? Nelle scritture profetiche che hanno gli ebrei, è scritto in Abacuc. Allora la legge non è che si basa sulla fede, no, la legge si basa sulle opere. La legge si basa sull'osservanza della legge. Allora, cosa dice l'Apostolo? E Cristo ci ha riscattati dalla maledizione legge, ci ha affrancati, ci ha liberati. In che maniera? Essendo divenuto maledizione per noi. Ah, qualcuno dirà, in che maniera? Perché è scritto nella legge, maledetto chiunque è appeso al legno. E Gesù fu appeso al legno della croce, non al palo, come dicono erroneamente i testimoni di Geova, ma fu appeso al legno della croce, perché Gesù fu crocifisso. Quello era il metodo che usavano i romani per castigare i malfattori che erano e venivano reputati degni di morte. La crocifissione, sì, questa è storia, non ci stiamo inventando niente. Storia confermata da quello che dice la Sacra Scrittura. Allora, maledetto chiunque appeso al legno. Allora, Gesù in questa maniera è diventato maledizione per noi. E allora, in questa maniera, ci ha liberati dalla maledizione della legge. Eh sì, perché noi, cosa pensate? Che non eravamo sotto la maledizione della legge? Anche noi eravamo sotto la maledizione della legge. Perché anche noi, pur essendo gentili di nascita, eravamo sotto il peccato. Allora il Signore, nella sua grande misericordia, è diventato maledizione per noi, affinché la benedizione d'Abramo e quindi la giustificazione per grazia mediante la fede venisse sui gentili in Cristo Gesù. Infatti noi che siamo gentili in Cristo Gesù siamo benedetti col credente Abramo. Perché? Perché abbiamo la fede d'Abramo, perché siamo giustificati come il nostro padre Abramo, perché padre fu costituito dal Signore, padre di molte nazioni. Vedete dunque il piano di Dio meraviglioso, piano di Dio che io vi ho esposto tante volte in diverse maniere e che io esalto, celebro, perché veramente è un piano meraviglioso che Dio ha formato in se stesso, avanti la fondazione del mondo, per dopo tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, vedete, affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso, vedete dunque, vedete allora l'opera del Signore Gesù, quanto è meravigliosa, e questa opera bisogna annunciarla anche agli ebrei che sono sotto la maledizione della legge, perché il nostro desiderio è che essi siano riscattati dalla maledizione della legge, e allora noi preghiamo per loro affinché il Signore, il Dio, gli dia di ravvedersi, quindi di cambiare mente, modo di pensare, perché il ravvedimento è importante, non sottovalutatelo. Gesù diceva agli ebrei, ravvedetevi e credete all'Evangelo, ravvedersi significa cambiare modo di pensare. Allora gli ebrei, facciamo un esempio, cosa pensano? Pensano per esempio di essere giustificati per le opere della legge di Mosè. Ma allora, io dico una cosa, ma questo pensiero, è un pensiero giusto o sbagliato? È un pensiero sbagliato. Quindi lo devono abbandonare. È un pensiero iniquo, un pensiero vano. Lo devono abbandonare. Devono cambiare modo di pensare. È uno dei... devono abbandonare quindi i pensieri iniqui. E uno dei pensieri iniqui che gli ebrei hanno è proprio questo. Loro pensano di essere giustificati per la legge. Basta leggere i loro libri per rendersene conto. Noi osserviamo questi precetti, quindi siamo giustificati e così via. No! Ravvedetevi, ebrei! Ravvedetevi! Cambiate modo di pensare. Abbandonate i pensieri sbagliati e credete nell'Evangelo. Questo dovete fare, ebrei. Dovete credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Messia. E credendo nella buona novella sarete salvati, sarete riscattati dalla maledizione della legge, sarete giustificati, sarete perdonati perché i vostri peccati vi saranno rimessi e vi saranno cancellati. Cancellazione che voi non potete ottenere osservando la legge di Mosè. E poi otterrete la vita eterna. Sì. Credendo nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Messia. Allora voi direte, se non ci ravvediamo, se non crediamo nell'Evangelo, sarete condannati. Gesù ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi voi dovete sapere questo, voi ebrei, mi rivolgo a voi ebrei che mi ascoltate, dovete sapere questo, che se rifiuterete di credere nell'Evangelo, quindi se persisterete nella vostra incredulità, voi sarete condannati. Quando morirete, l'anima vostra se ne andrà all'inferno, nell'Hades, che voi chiamate Sheol. Ve ne andrete là, all'inferno, dove sarete tormentati. Quindi io vi ho avvertiti, accetterete il mio avvertimento? Il Dio sa ogni cosa. Il Dio sa chi sono quegli ebrei che sono ordinati a vita eterna e quindi noi siamo certi che a suo tempo il Signore darà a questi ebrei, che fanno parte del residuo eletto secondo la grazia, di ravvedersi e di credere nel Vangelo. Però dal canto mio, chiaramente, io sono obbligato a predicare il ravvedimento e l'Evangelo a tutti gli ebrei, come anche naturalmente noi siamo chiamati a pregare per gli ebrei, perciò non è che possiamo pregare per un ebreo sì, per l'altro no, preghiamo per gli ebrei, fratelli del Signore, poi il Signore farà quello che ha decretato, il Signore farà grazia a chi vorrà far grazia, perché io vi ricordo che ai tempi dell'Apostolo Paolo, ai tempi degli Apostoli, non è che tutti i persecutori della Chiesa furono salvati, non è che il Signore, diciamo, fece grazia a tutti i persecutori della Chiesa. A Saulo gli fece grazia, però tanti altri persecutori rimasero persecutori e quindi rimasero sotto il peccato. Però ribadisco, dato che noi crediamo nel proponimento e redenzione di Dio, ribadisco che dal canto nostro ci deve essere proprio questa spinta, dettata dall'amore di Cristo, a pregare per gli ebrei, perché questa è la volontà di Dio. Noi preghiamo per gli ebrei affinché siano salvati. Facciamolo e Dio ci benedirà, perché ci si sente benedetti da Dio ogni qualvolta si fa quello che il Dio comanda di fare. E questo sicuramente è una di quelle cose che siamo comandati di fare. Pregare per gli ebrei. Preghiamo dunque, ricordatevi nelle vostre preghiere appunto di pregare per gli ebrei affinché siano salvati. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.